l'eco del silenzio. Silenzio. Un'idea di Lucia Cappellucci. Buongiorno a tutti e benvenuti all'Eco del Silenzio. Anche questa settimana parleremo del terremoto in Emilia. Questo perché purtroppo l'attenzione dei media sta già scemando e si sta focalizzando altrove. Ritengo quindi opportuno dedicare ancora una volta la trasmissione alle persone di quel territorio così colpito. Ma è la mail scritta da una donna che appunto ha vissuto il terremoto e che per una serie di giri, rigiri e rigiri è arrivata fra le mie mani. E dato che fondamentalmente è un racconto preciso ed estremamente puntuale di quello che è accaduto e di come è stato vissuto, ho pensato che fosse assolutamente opportuno darle un eco. Omettendo quindi il nome completo, ma chiamando semplicemente N, la donna che ha ricevuto questa email e che mi ha autorizzato a diffonderla insieme all'altra donna che gliel'ha scritta, che chiamerò A, buon ascolto. Tra parentesi, il testo di questa mail è diventato una nota disponibile e quindi leggibile nella pagina di Facebook dell'Eco del Silenzio. Ciao N, ti ringrazio davvero tanto. Ho scoperto di avere tante amiche dal cuore grande. Qui purtroppo le cose sono veramente molto pesanti, ma noi emiliani siamo un popolo di lavoratori e sono sicura che tra tante lacrime la vita ripartirà. Ti ringrazio anche dell'aiuto che mi offri. Grazie davvero. Il vostro sostegno mi aiuta molto. La prima scossa è avvenuta verso l'una di notte. Ci siamo svegliati di soprassalto e sono andata al computer per avere notizie sulla scossa, ma nessuno sulla rete ne parlava. Nella nostra zona, il terremoto si manifesta solitamente con una sola scossa. Ho proposto a mio marito di andare a dormire in macchina, ma lui mi ha risposto che ormai era già passato, era inutile uscire. Sono andata nella camera dei bimbi per controllare che non ci fosse nulla che potesse cadergli addosso e sono tornata a dormire malvolentieri. Poco dopo le 4, un rumore assordante ci ha svegliato. Assomigliava a quello di fortissimo vento, un tornado forse, sommato a fortissimi boati. La terra sotto la nostra casa sembrava in ebollizione, la luce è venuta a mancare. Gli oggetti e gli arredi hanno iniziato a cadere, ma non lo avevo capito. Siamo corsi nella camera dei bambini e poi giù per le scale, scalzi, tra acqua e oggetti. Si scivolava, era buio, il rumore assordante, tutto tremava. 20 secondi interminabili. Non riesco ancora a spiegarmi come abbia fatto la casa a non collassare. Poi, finalmente, la porta d'ingresso e il giardino. Abbiamo allontanato le macchine dalla casa spingendole a mano e vi abbiamo messo dentro i bambini, al sicuro. Poi, la corsa in casa appena finita la scossa. La luce era tornata, ho aperto la porta e ho subito il secondo shock. Sembrava fosse scoppiata una bomba. Piatti, bicchieri, armadi, tutti a terra. Ho camminato velocemente sui vetri scalza senza nemmeno sentirli per prendere ciabatte, una coperta e le chiavi della macchina. E poi, fuori di corsa. Mi mancava ancora il telefono per chiamare amici e parenti, ma non riuscivamo a entrare. Le scosse erano tante e di forte intensità. Alcuni gridavano «è caduta la torre dell'orologio e quella del castello». Ad ogni scossa, il rumore di un muro che cedeva o una finestra che scoppiava. È arrivata l'alba. Il rumore degli elicotteri, il suono delle sirene, ambulanze, pompieri, vigili, carabinieri, protezione civili che arrivavano da tutta la regione come se fosse iniziata una guerra o un bombardamento. Fortunatamente stavamo tutti bene. Solo qualche giorno dopo ho appreso che il 5% delle abitazioni erano collassate, ma la perdita maggiore è stata quella del settore produttivo. L'85% dei capannoni era inagibile o crollato. Le scosse di forte intensità hanno continuato e continuano a farci compagnia. Martedì 29 maggio ho deciso di tornare in ufficio, cercando di superare il terrore di stare chiusa tra quattro mura per gestire perlomeno le urgenze del mio ufficio. Inizio alle 9. Sono salita in ufficio al primo piano, con l'angoscia e il cuore in gola. Ho lasciato la porta aperta, non si sa mai. Ho aperto le finestre, acceso il computer. Mi sono seduta e dopo pochi secondi una scossa lunghissima. Non terminava mai. L'intonaco ha iniziato a staccarsi. Sono corsa alla porta, ma non si possono percorrere le scale durante le scosse. Così mi sono fermata sotto l'architrave della porta d'ingresso dell'ufficio. Ma la terra continuava a tremare e il muro davanti ai miei occhi ha iniziato a crepare. Pezzi sempre più grossi di intonaco cadevano dal soffitto. Non sapevo se era meglio buttarsi dalla finestra o provare l'uscita delle scale. Poi, finalmente, un momento di silenzio e la corsa veloce sulle scale e poi il cielo aperto. Entrare in casa di giorno è per tutti coloro che hanno subito questi traumi quasi impossibile. Quando si apre la porta d'ingresso, ci si ferma sulla soglia e lo sguardo viaggia a destra e a sinistra, come se la casa fosse indemoniata, come se ci fosse qualcuno nascosto in qualche angolo. Poi una corsa veloce per prendere qualche oggetto di prima necessità e poi di qua fuori. La notte, invece, entrare è impossibile. La paura è troppa. Vi scrivo la mia testimonianza, io che mi ritengo fortunata, anche se scioccata da questo evento, per dare un minimo dell'idea di coloro che stanno vivendo questo disagio e di coloro che non ce l'hanno fatta. Il rumore di un motorino che si avvicina, uno sportello che si chiude, un oggetto che cade, ci fa sobbalzare e ci mette in allerta. Ringrazio tutti coloro che mi hanno scritto, dimostrandomi amicizia e affetto. Ho scoperto di avere tante amiche dal cuore grande, disposte a darmi anche ospitalità. Vi ringrazio tutte e vi abbraccio per la vostra generosità. Spero di ritrovare presto un po' di serenità anche grazie al vostro aiuto. Davvero, grazie a tutte. L'eco del silenzio. Ed ora passiamo alla prossima notizia, che è finalmente un articolo. Da www.dissapore.com al microbirrificio dei disabili, fermato dal terremoto, serve una mano. Di Giorgia Canarella, del 5 giugno 2012. Una cascina conciata piuttosto male dopo il terremoto racconta una piccola storia emiliana di questi giorni. Si trova nella zona industriale di Crevalcore, dove nel 2007 il veterinario Michele e sua moglie Roberta, biologa, decidono di tornare al volontariato, il mondo dove si sono conosciuti, fondando la cooperativa sociale Fattoria Abilità e Vecchia Orsa, il microbirrificio artigianale che dà lavoro a una decina di ragazzi disabili psichici. Partito con un mini impianto da soli 80 litri, dopo le prime cotte decisamente irrivendibili, il birrificio decolla grazie anche a due giovani di San Giovanni in Persiceto, che si fanno la birra in casa, e un tecnologo della Eneca in pensione, tutti invitati a dare una mano. Si arriva così alla produzione di 4 birre fisse, una blonde, una Weiss, una Saison e una Belga Ale, 2 stagionali, un Imperial Stout e una Blanche, e un American Wet, brassata esclusivamente per l'Harvest Pub nel centro di Bologna. Sono 300 ettolitri all'anno, per 55.000 bottiglie che continuano a essere etichettate da ragazzi con ritardi mentali e cognitivi. Il fatturato, che si aggira sui 300.000 euro, viene reinvestito in attività di sostegno ai disabili. Un progetto bellissimo che porta anche a un titolo nel 2012 alla loro saison, è la birra dell'anno. Questa è la parte bella della storia. Ma Roberto Poppi, birraio ed educatore professionale, uno dei fondatori della Vecchia Orsa, ci ha detto che il birrificio di Crevalcore non è stato risparmiato dal terremoto del 29 maggio. Il magazzino, che contiene tra le altre cose bottiglie, fusti vuoti e i mosti per lo starter della birra, è inagibile a causa dei danni subiti ed è rischioso anche entrare nel laboratorio di produzione lì a fianco. Una beffa, perché in estate il birrificio doveva spostarsi in un capannone a San Giovanni in Persiceto, passando da un impianto di 200 litri a uno di 1000. Alla Vecchia Orsa non sanno se proseguire o fermare la produzione fino al trasferimento, facendo forse qualche cotta itinerante nei birrifici disposti a ospitarli. Per ora, comunque, bisogna necessariamente imbottigliare 1200 litri di birra bloccati dal terremoto. Michele e Roberta sono preoccupati e, anche se hanno dentro un misto di pudore e orgoglio che impedisce di chiedere aiuto, stanno ricevendo solidarietà. Il PD di Crevalcore ha messo a disposizione un camion frigorifero, mentre il birrificio Torre Chiara devolverà alla cooperativa il 5% del ricavato del Penil Days, ribattezzati Una Pinta di Speranza, appuntamento dello scorso weekend a Parma. Chi se la sente può fare una donazione o comprare le birre della Vecchia Orsa scrivendo a info@fattoriabilita.it. Mi permetto di ripetere ulteriormente l'indirizzo info@fattoriabilita.it. Detto tra noi, sono davvero buone. L'eco del silenzio. Concludiamo con un progetto anch'esso importante e bisognoso d'aiuto. Da www.lalucciola.org, centro di terapia integrata per l'infanzia La Lucciola. Emergenza sisma. La Lucciola ha bisogno di aiuto. Il sisma del 20 maggio aveva già danneggiato la struttura centrale del centro, ma le lesioni non erano molto gravi e contavamo di farcela con le nostre sole forze. Le nuove scosse di martedì 29 hanno radicalmente cambiato la situazione. La villa è gravemente compromessa e dichiarata inagibile. Se si verificassero nuove scosse intense, la probabilità di crollo è altissima. Altri edifici sono seriamente lesionati, come la struttura che accoglie alcuni laboratori, la cetaia, la serra, e non è più possibile accedervi. I bambini e gli operatori sono usciti incolumi dalla devastazione, ma la realtà di 30 anni di impegno, rigore, passione per i bambini rischia di concludersi così. La Lucciola non ha le risorse da sola per far fronte a danni tanto ingenti. Abbiamo bisogno della solidarietà di tutti, perché la somma da raccogliere è molto alta. Nei prossimi giorni cercheremo di attivare la possibilità di compiere donazioni da questo sito. Ve ne daremo notizia al più presto. Grazie di cuore. Lo staff. A chi si stesse chiedendo cos'è questo centro, mi affretto a spiegarlo con le parole presenti nel loro stesso sito. Il Centro di Terapia Integrata per l'Infanzia La Lucciola è una struttura di riabilitazione che accoglie bambini e ragazzi nella fascia di età 3-18 anni, con disabilità fisiche, mentali e multiple, paralisi cerebrale infantile, sindromi neurologiche, sindrome di Down e altre sindromi genetiche, ritardo mentale, disturbi dello spettro autistico, disturbi dell'apprendimento e dello sviluppo sociale. Il centro opera secondo una modalità originale e innovativa che integra gli assetti teorici della neuroriabilitazione, della pedagogia attiva e della psicoterapia analitica in una prassi operativa unitaria. L'attività terapeutica non prevede il tradizionale accostamento di più sedute individuali di trattamento, ma un'organizzazione centrata su gruppi di bambini, nella quale le tecniche riabilitative terapeutiche sono adottate nell'ambito di compiti funzionali e significativi per il bambino, secondo una prospettiva ecologica dello sviluppo. È possibile richiedere visite, consulenze e valutazioni per una eventuale frequenza al centro. Questa attività si svolge a regime privato o su invio del servizio NPI dell'ASL di Modena. La struttura gode di una convenzione con l'ASL di Modena per i bambini residenti nel territorio e opera in collaborazione con vari servizi di neuropsichiatria e riabilitazione nel territorio regionale e nazionale. Anche per questa settimana è tutto, ma prima di lasciarvi, ci tengo a ricordare che tutto il materiale della trasmissione e molto altro ancora è presente nella pagina Facebook dell'Eco del Silenzio, dove potete trovare gli articoli o i codici IBAN dei comuni terremotati o di alcune delle strutture di cui abbiamo parlato in queste settimane. Da Lucia Capparrucci un saluto, quindi, e l'augurio di frenetiche letture. I contenuti di questa puntata sono disponibili all'indirizzo ecodelsilenzio.blogspot.com. L'eco del silenzio. Un'idea di Lucia Capparrucci.